c'è fortuna, non c'è destino, non c'è sorpresa per me. Non c'è vittoria né aspirazione così importante per me. Non c'è bellezza, frase ad effetto o un'assoluta verità, ma c'è un istante nell'universo, attimo eterno, in cui mi sento unica. Perché niente come te e me insieme, niente vale quanto te e me insieme. Siamo due respiri che vibrano vicini, oltre il male e il bene, niente come te e me insieme. Non serve intento né sacrificio, una tentazione per me. Desiderare, voler sparire, resta un ricordo per me. Non serve dolore, normale attenzione, quella che riservo a te. Anche il silenzio che sento dentro quando mi avvolge diventa musica. Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Buongiorno a tutti quanti, 12:08 minuti e 7 secondi, 8 in questo momento al voce di CRM Radio, in studio Filippo Glorioso. Vi ringrazio come sempre per essere tantissimi all'ascolto di CRM e di tutti i palinsesti di questa emittente che cresce in maniera esponenziale, devo dire 35 anni nel presente nel territorio, dando voce a chi voce naturalmente non ha. Sono importantissime le emittenti locali perché comunque, a differenza di quelle nazionali, danno capillarmente le informazioni su tutto quello che succede nel nostro territorio, ma anche nella nostra benamata regione. Oggi una puntata all'insegna della ricerca scientifica, all'insegna di una malattia che colpisce i bambini maschi, si chiama appunto distrofia muscolare di Deschamps con la variante Becker. Chi ha detto ai lavori sa cosa significa, e c'è un onlus fatta da tutti i genitori che hanno queste patologie, i propri figli hanno queste patologie, quindi sono i genitori stessi che sono associati in questa onlus che si chiama Parent Project Onlus, con sede a Roma, ma il vicepresidente è il nostro corregionale ed è il professor Luca Genovese, che tra poco avremo in diretta radiofonica, l'abbiamo avuto qualche settimana fa e abbiamo parlato con lui di questa patologia, dei primi sintomi, di come un genitore si possa accorgere che il proprio figlio ha l'inizio di questa malattia. Poi parleremo successivamente, dopo aver parlato e lanciato la campagna di sensibilizzazione, di aiuto economico, se vogliamo chiamarla così, di raccolta fondi, chiamando il numero verde 800 943 333, oppure inviando un SMS al numero 45503. Potete donare quello che vi pare, da 2 euro a 10 euro a 100 euro, quello che il vostro cuore e il vostro portafoglio vi possa consentire di fare. Il numero verde che vi ho dato, ve lo ripeto, 800 943 333, serve invece per avere informazioni sia sulla malattia, sia sui centri di primo intervento e naturalmente anche della stessa Onlus, che può essere accanto, vicino, a sostegno morale ma anche scientifico, perché no, di eventuali insorgere di patologie nei nostri figli. Quindi è un punto di riferimento ben preciso. Successivamente a Luca Genovese dovremmo avere un'altra, una biologa che è la direttrice scientifica di questa Onlus, ed è esattamente la dottoressa, dovrei averlo qui da qualche parte, vediamo se riesco. Allora avremo la dottoressa Messina, da Sonia Messina, che segue questa patologia al Policlinico di Messina di concerto con il dottor Filippo Cavallaro. L'avremo verso le 13, le 12.45 in onda, questi due medici. Il primo appunto è un medico vero e proprio, il secondo è un fisioterapista, quindi affronteremo con loro la tematica di questa malattia vera e propria. Invece da Roma avremo una responsabile scientifica, che è la dottoressa Ceradini, la quale appunto, essendo biologa ed essendo ricercatrice, ci ragguaglierà su quella che è la ricerca scientifica vera e propria. Quindi voglio dire, un palinsesto pieno. Abbiamo già in diretta radiofonica il professor Luca Genovese, che ringrazio ancora una volta e saluto e do il benvenuto nella nostra trasmissione. Luca, buongiorno. Pronto, buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. No, buongiorno a te, anche se il tempo non è molto clemente, insomma fa abbastanza freddo ed è uggioso, non so dalle tue parti in provincia di Ragusa com'è il tempo. Guarda, qua ti posso dire invece abbiamo una giornata spettacolare, non so da dove sia uscita, ma c'è un sole splendido, c'è ovviamente freddo, ma il clima è... cioè la giornata è proprio bella, solare. Allora, io ho dato uno spaccato di quello che è stato la settimana scorsa, due settimane fa, l'incontro che abbiamo avuto sempre in maniera via etere, cioè tu con il telefono e noi qui dalla nostra postazione radiofonica. Ho presentato ancora una volta la vostra Onlus, di cui tu sei il vicepresidente e delegato per la regione siciliana. La Onlus si chiama Project Onlus Parent, che è stata è una costola di una parente lontana negli Stati Uniti, l'avete portata qui in Italia, siete associati tutti i genitori i cui figli hanno questo tipo di patologia, per cui siete direttamente coinvolti in questa tematica, dico bene? Sì, è un'associazione composta da familiari, sostanzialmente genitori, infatti Parent Project Onlus, poi c'è anche un sottonome, diciamo così, che è un altrettanto importante, genitori contro la distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Che poi sarebbe la variante Becker, Duchenne, sì, è quello che l'ha scoperto, meno la grave, variante diciamo. Meno grave. Allora, con te la volta scorsa abbiamo parlato di come, quali sono i sintomi a cui i genitori devono stare attenti, perché colpisce soltanto i bambini maschi, dico bene? Sì, allora colpisce, hai detto bene anche prima, ti ascoltavo, colpisce i bimbi maschi e sostanzialmente nella frequenza diciamo di circa 1 ogni 3.500 nati vivi, e adesso diciamo quando avremo la nostra genetista, la dottoressa Ceradini, responsabile scientifica di, sì, Parent Project, ci spiegherà, ecco anche io preferisco lo spieghi lei, ci spiegherà meglio come mai solo i maschi e non le femmine. Lei è una ricercatrice, è una biologa. Le femminucce possono essere invece portatrici sane, così come capita effettivamente che alcune mamme hanno trasmesso ai figli geneticamente senza saperlo, essendo portatrici sane, non avendo mai avuto nulla di sintomatico rispetto alla patologia, hanno trasmesso ai figli maschi questo tipo di... ecco perché è anche importante parlarne, perché in teoria, voglio dire, ci potrebbero essere delle portatrici inconsapevoli. Ecco, ti volevo fare una domanda. Ma femmine. Due domande, Luca, me li consentirai, perché è chiaro che la gente che ci ascolta vuole un po' capire. A me interessa capire una cosa: una madre che inconsapevolmente, senza colpa, quindi voglio dire inconsapevolmente, certo, trasmette questo tipo di patologia ai propri figli, dal punto di vista psicologico, come affronta, qual è l'impatto, come si può aiutare una mamma che può sentirsi anche in colpa, nonostante non abbia colpa, scusa l'inghippo di parole. Sì. Ecco, chiaramente come tu hai colto in effetti un aspetto molto importante e che è comune anche a tante altre patologie genetiche in cui magari sono anche entrambi i genitori portatori inconsapevolmente. E ovviamente ogni reazione è diversa dalle altre, perché capisci che è soggettiva. Una notizia difficile da digerire già per il discorso, ovviamente, perché si deve accettare un problema grave sui figli, ma in più la consapevolezza di essere state la causa involontaria, voglio dire, chiaramente può creare dei problemi, in alcuni casi li crea. Ecco un altro ruolo dell'associazione, infatti, perché è necessario un confronto con anche una figura importante, quella può essere la psicologa, che noi abbiamo anche qui in Sicilia nel nostro CAD, Centro Ascolto Duchenne. Sì. Seguiamo le famiglie siciliane, e l'operatrice che lavora per Parent Project in quel centro è proprio una psicologa, perché sia l'aspetto della diagnosi, di cui magari dopo, ecco, avremo modo di parlare, ma anche questo aspetto che hai colto tu, perché ovviamente è un peso non indifferente, però alcune mamme reagiscono comunque positivamente, si sbracciano e combattono, altre magari purtroppo sbagliandosi attorcigliano nel loro dolore ancora di più per questa. Beh, è comprensibile caso. Comunque, è comprensibile. Senti Luca, noi dobbiamo essere veloci perché sai che ho tantissimi altri ospiti, certo, però mi premeva, io ho dato già due numeri importanti, è partita già la campagna di sensibilizzazione di raccolta fondi, perché la ricerca, ahimè, in Italia dal punto di vista statale non è che percepisca chissà che cosa, forse nulla, non so in percentuale quanto sia i fondi destinati. Sempre troppo poco, purtroppo. Troppo pochi. E questo è un dato di fatto. Io l'augurio che mi faccio sempre è che chi è predisposto, chi è stato candidato a gestire la res pubblica, cioè i futuri governanti, prendano visione e conoscenza che ci sono in Italia tantissime patologie. La sanità ha bisogno di ricerca scientifica, cosa che succede negli Stati Uniti, in Germania, in Svizzera, in tutte le parti del mondo. Buona fetta del PIL interno, quindi del prodotto interno lordo, viene destinato poi alla ricerca scientifica, senza la quale non si può debellare nessun tipo di patologia. Detto questo, voi siete partiti già con la campagna di raccolta fondi col 5 per 1000, lo volevo ricordare, correggimi sempre se sbaglio, e poi per gli SMS chi vuole può mandare da 2 euro a 100.000 euro, insomma dipende molto dal portafoglio di ognuno di noi, questo è il purtroppo, ahimè, nonostante siamo in un momento particolare dal punto di vista economico. Vedo il numero dell'SMS, mi correggerà sempre Luca nel caso in cui dovessi dire qualche imperfezione, è il 45503, ripeto 45503, mandate, perché purtroppo questi bambini hanno bisogno costantemente di cure, ma soprattutto hanno bisogno, perché ancora la malattia non è stata per nulla debellata, anzi necessita di ancora maggiori approfondimenti scientifici. L'altro numero, l'800 943 333, è il numero verde verso il quale potete indirizzarvi per chiedere informazioni qualora vi doveste accorgere malauguratamente che a casa vostra qualcosa non dovesse andare nei vostri figli maschi, e quindi avere già un punto di riferimento dell'associazione, chiedere informazioni, supporto, tutto quello che necessita, perché insomma la famiglia deve essere supportata. Vi ripeto il numero dell'SMS, poi lo dirà anche Luca, 45503, per la vostra donazione. Mi auguro che siate molti, tanti, perché più siamo meglio è, e la ricerca scientifica può muoversi ancora meglio. Luca, volevi aggiungere qualcosa? Sì, no, soltanto due, diciamo, specifiche. La prima è che in effetti con l'SMS, se è fatto da un cellulare, si donano soltanto 2 euro sostanzialmente, è una cosa abbastanza, diciamo, automatica. Da numero fisso si può scegliere tra 2 e 5 euro. Per eventuali altre forme, per avere più informazioni, per capire come aiutare Parent Project, perché vi sono anche modi importanti di aiutare, e non soltanto economici, per esempio anche il voler proporsi come volontari per portare avanti delle iniziative, quindi dedicare non denaro magari, che a volte non sempre è disponibile, ma con predisposizione da risorse umane, per esempio, ecco, anche risorse un umane. Po' di volontariato, ci sono tante persone, io mi permetto di iscrivere anche te tra quelli che dedicano parte del loro tempo a darci una mano come associazione, quindi in questi giorni ci siamo anche sentiti, e quindi diciamo come che ce ne siano tanti altri che possano, ecco, non soltanto con donazioni di natura economica. Rispetto a questa campagna volevo solo aggiungere, perché è molto importante, Filippo, scusami se ti rubo qualche secondo, poi magari interrompi, però questa campagna, così come facciamo di solito, che parte il 10 febbraio, è partita il 10 febbraio e finisce il 24 febbraio, questa del numero degli SMS, ha un obiettivo ben preciso, noi usiamo darci degli obiettivi ben precisi e renderli noti alla gente. Questo nello specifico serve a raccogliere fondi per fare uno studio che magari nessuno farebbe altrimenti, anche se ha dei riflessi importanti, perché i nostri ragazzi che ormai hanno un trattamento terapeutico col cortisone, però sono praticamente cronicamente soggetti a cortisone, sì, per 10, 15 anni, 20 anni e anche di più ovviamente, si crea un problema di osteoporosi, poi magari i medici lo sapranno dire meglio di me. Osteoporosi ovviamente significa fragilità ossea, ad esempio, sì, mio figlio, uno dei problemi che ha avuto delle fratture, anche a volte banali. È un po', scusami, un po' quello che capita alle donne quando entrano in menopausa. Sì, bravo. Quella patologia. Questo studio che si sta facendo sui nostri ragazzi, che si vuol fare, perché partirà su circa 70 pazienti, ecco, se si avranno i fondi per farle partire, sono coinvolti diversi centri, tra cui in Sicilia il Policlinico di Messina, e quindi la dottoressa Messina ci potrà dire qualcosa. Praticamente può essere uno studio anche utile poi ad altre patologie, perché il bello della ricerca poi è questa, che può fare da lievito, si studia per un motivo ma si trova qualcosa anche per altri, quindi voglio dire, aiutare la ricerca vuol dire aiutarci noi stessi, aiutare il mondo, aiutare ad andare avanti. Io ho un motto, mi auguro che resterà indelebile anche nel futuro della mente della gente: se vuoi aiutare tuo figlio, aiuta la ricerca aiuta tuo figlio. Sì, perché guarda, credo che sia questo, no? Le nostre esperienze, Filippo, ci dicono, di tanti genitori, no, che nemmeno ci sognavamo magari di ritrovarci in questa situazione, ci auguriamo che non ci si trovi nessuno, però voglio dire, è chiaro che poi quando ci si è in mezzo si capisce molto di più. Beh, il trucco è anche capirlo quando magari non sei direttamente coinvolto. Luca, io ti ringrazio, sai che ti sono vicino personalmente in tutti i modi, anche con mia volontà, ma non devi ringraziarmi. Chi ha figli, anche chi non ha figli, ha delle sensibilità attinenti all'umanità, ad essere umano. Credo che non possa essere scevro dall'interessarsi a quelle che sono le patologie che colpiscono, ahimè, buona parte di bambini che colpe non hanno, e quindi lì bisogna dare una mano in tutti i sensi, chi può, come giustamente tu hai inserito prima, chi può anche fisicamente, cioè personalmente, senza bisogno di soldi, ma facendo del volontariato, dando della voce, facendo da amplificatore a questa affinché la gente venga sensibilizzata a dare una mano. I momenti certamente non sono dei migliori, però il popolo italiano, ma quello siciliano ancora di più, è un popolo straordinario, capace di dare sia il cuore sia l'anima, ma anche a regalare quello che può in quanto a soldi. E la cosa importante di questa associazione, lo sottolineavo prima all'inizio, lo risottolineo, è che sono i diretti genitori che fanno parte dell'associazione, non è un'associazione esterna che si occupa di questo tipo di patologia, ma sono gli stessi genitori che gestiscono tutto quello che c'è da gestire. Questa la dice lunga, perché dà le garanzie che poi i soldi vengono spesi sicuramente bene. Dico bene, Luca? Sì, sicuramente. Tra l'altro anche alcuni pazienti che cominciano a crescere, per fortuna, e anche loro sono soci dell'associazione e si interessano anche più dei genitori, ma in quanto i genitori, a portarla avanti. Luca, io ti fermo perché ingombe la pubblicità. Chiaro. Ti ringrazio intanto per essere intervenuto e chiaro come sempre nel dare delle delucidazioni su quella che è la vostra OLUS, che a mio modo di vedere è molto interessante, e ci auguriamo che la gente corra in tutti i sensi, o personalmente a darvi una mano o anche economicamente, perché bisogna portare avanti la ricerca scientifica su questo tipo di patologia ancora purtroppo ferma al palo, non ci sono stati sviluppi enormi che consentono di ben sperare per il futuro. Speriamo che con l'intervento anche economico, buona parte anche dello Stato, perché no, si possa arrivare a una soluzione quantomeno parziale per dare una speranza in più, prima ai bambini e poi ai genitori. Grazie ancora, Luca, per essere stato con noi. Grazie, Filippo, grazie a te. Un abbraccio, buon lavoro. Ciao. Buon lavoro. Linea alla regia. Eccoci di nuovo qui. Se abbassiamo la musica in cuffia, grazie. Allora, 12:24, abbiamo già ascoltato il vicepresidente con delega per la regione siciliana di questa grande, grande, importante ONLUS, vi ricordo il nome, Parent Project, vi ricordo ancora gli SMS, ve lo ricorderò fino alla nausea, 45503, per donare 2 euro invece su telefonia fissa, e anche per il numero verde 800 943 333, potete donare fino a 5 euro. Ricordatevi l'importanza di questa donazione Intanto purtroppo devo dare anche lettura degli sponsor senza i quali questa trasmissione non sarebbe possibile farlo, ho detto un sacco di volte, allora mi fermo un attimo in attesa che la regia si metta in contatto con la dottoressa Cerradini, se non erro, sì, Cerradini, eccola lì, tra poco arriverà in, per via telefono e quindi capiremo un attimo, visto che lei è una ricercatrice, una biologa, cosa sta facendo la ricerca scientifica, cosa necessita per approfondire questa ricerca su questo male che si chiama appunto distrofia muscolare di Gauchamp con variante Becker, la variante meno potente rispetto alle altre che sono più degeneranti. Volevo presentarvi un'azienda che già ho presentato altre volte ed è l'azienda Albanese, ricordate questo nome, Albanese, salumi del Parco delle Madonie, non sono soltanto salami, non sono soltanto prosciutti cotti delle Madonie che sono stupendi, fatti bene, non hanno nulla che invidiare ai prodotti nazionali, senza fare nomi per carità di Dio, però Albanese ha creato veramente un'azienda a misura d'uomo, lui e le sue figlie tutti i giorni danno la loro vita per questi prodotti che sono genuini, buoni e gustosissimi, tra l'altro c'è la porchetta che non invidia quella di Roma e oltretutto la coppa, i salumi, cioè i salami, ma la cosa più bella è che ci sono i precotti tipo la fresa di tacchino che arrivate a casa, se vostra moglie non ha il tempo di cucinare basta riscaldare e portare nelle vostre tavole un pezzo dell'azienda Albanese che sicuramente delizierà il vostro palato. Allora ci dovrebbe essere già in arrivo, ecco, già è arrivata la dottoressa Cerradini che ringrazio e saluto. Dottoressa Cerradini, buongiorno. Buongiorno. Grazie per aver accettato l'invito. Intanto poco fa abbiamo parlato con il vicepresidente Luca Genovese, abbiamo fatto un assunto di quello che è la Onlus, di cosa si occupa, le varie branche che ha, qual è la patologia di questa distrofia muscolare con la variante Becker di Deschamps, ed è una cosa molto invalidante e che la ricerca scientifica in Italia non è molto ben finanziata, soprattutto dalle istituzioni. Dico bene, dottoressa? Scusi, non sento tanto bene, non è molto la ricerca scientifica? Allora, la ricerca scientifica in Italia non è ben finanziata dal governo centrale. Beh sì, questo è sicuramente un grande problema che abbiamo in Italia, a quanto noto, diciamo, e quindi in questo Parent Project cerca di fare quello che non fa, diciamo, la parte, diciamo, più istituzionale. Ecco, dottoressa, lei è anche una biologa, una ricercatrice. Sì. Come mai questa malattia colpisce soltanto i bambini maschi e non e invece sono portatrici sane alcune bambine di sesso femminile? Sì, allora, diciamo che dipende tutto dal fatto che questa, appunto, questa malattia colpisce il gene della distrofina, che è un gene che si trova sul cromosoma X. E quasi tutti insomma sanno che le donne hanno due cromosomi X mentre gli uomini hanno un cromosoma X e un cromosoma Y, quindi nel momento in cui si ha una mutazione sul gene e il gene non funziona, gli uomini hanno solo una copia di questo gene, ovvero quella sull'unico cromosoma X che hanno, e quindi diciamo si ammalano, mentre le donne hanno la fortuna di avere l'altra copia del gene che è sull'altro cromosoma X che compensa l'assenza del gene mutato. Oh. Diciamo il danno sul gene mutato. Ecco la spiegazione. Quindi, il risultato è che appunto i maschi si ammalano e le donne vengono chiamate portatrici sane, ovvero sono asintomatiche. Presentano la mutazione ma non presentano i sintomi, anche se in realtà è stato scoperto negli ultimi anni che c'è una percentuale molto bassa di donne che sono sintomatiche, andiamo intorno all'1%. Quindi molto minima. Sì, e questa è la caratteristica per cui... Ecco, dottoressa, la ricerca scientifica fino ad oggi che progressi ha fatto, se di progressi si può parlare? Ma no, sicuramente a livello, diciamo, di distrofia muscolare di Duchenne e Becker la ricerca è ad altissimi livelli, perché partiamo dal presupposto che comunque questa malattia è una malattia rara e le malattie rare sono circa 7.000 e tra tutte queste malattie è una di quelle che ha la ricerca più avanzata e a livello italiano abbiamo una ricerca che è avanzata quanto nel panorama internazionale, quindi insomma per questo siamo molto contenti. Il punto fondamentale è che non esiste una cura ancora per questa malattia, esistono, diciamo, delle terapie, dei trattamenti a base di cortisone che in realtà è un palliativo, perché rallenta un po' la malattia in quella fascia di età, diciamo dai 7 ai 10 anni, sì, in cui la progressione della malattia accelera. E quindi al momento in tutto il mondo si hanno diversi filoni di ricerca per riuscire a trovare una cura e si procede su diversi fronti. Dottoressa, non vorrei essere, cioè sono ignorante in materia, ci mancherebbe, però parlando con Luca Genovese mi diceva, se non erro, mi corregga se sbaglio, perché qui bisogna parlare con l'indice e il pollice, parliamo di cose serie, mi parlava che l'intervento costante di questi cortisoni, poi la controindicazione per questo tipo di cura, chiamiamola così, è che i ragazzi vanno in osteoporosi. Diciamo che il cortisone, come molti sanno, perché è utilizzato anche per tante altre malattie, sì, ha diversi effetti collaterali, tra cui uno è appunto questo, diciamo andare un po' a variare il metabolismo osseo, a dare una fragilità ossea e quindi anche l'osteoporosi, quindi i ragazzi vanno incontro a un rischio maggiore di fratture e questo appunto è l'obiettivo che noi ci siamo posti con la campagna, ovvero di andare a finanziare un progetto che è al momento unico al mondo, è un progetto tutto italiano di una sperimentazione clinica, quindi parliamo di una sperimentazione fatta sull'uomo e quindi di una fase avanzata a livello di ricerca, di andare appunto a studiare quali sono i fattori che determinano questa fragilità ossea e quindi la conseguenza di fratture, e andare a quel punto a capire quale farmaco può andare ad aiutare sotto questo aspetto. Senta, sembrerà strano, io questa domanda gliela voglio fare, dottoressa, perché molta gente non ha cognizione di causa, nel senso che non capisce, uno perché non si destinano maggiori fondi, nonostante siamo in un momento veramente critico dal punto di vista economico, e lei ne è cosciente perché comunque vive in un contesto italiano, quindi conosce perfettamente le problematiche che nel quotidiano tutti stiamo affrontando con questa crisi economica. Ma io personalmente mi chiedo, e quindi cerco di spiegare a chi ci sta ascoltando, perché ci vogliono tutti questi soldi per fare una ricerca, dottoressa? Come vengono investiti i soldi che la ricerca scientifica dallo Stato, ma anche dai privati, percepisce? I soldi per fare una ricerca scientifica sono tanti, perché partiamo dal presupposto, intanto questa è una malattia per cui diciamo il gene responsabile di questa malattia è stato scoperto solo nell'86, quindi recentemente. È una malattia storicamente giovane. E i soldi devono essere tanti, perché si parte da una ricerca di laboratorio, che è quella che si chiama ricerca di base, sì, e quindi le persone stanno in laboratorio, quello che si vede ogni tanto nei telegiornali, che lavorano con le provette, con la mascherina sul viso, con i cellulari. Poi per passare a se si hanno dei risultati positivi, si deve cercare di arrivare alla sperimentazione sull'uomo di alcune molecole che possono essere state scoperte in laboratorio o alcuni approcci terapeutici. E i soldi sono tanti, perché i macchinari per esempio per lavorare in laboratorio sono costosi, perché bisogna pagare i ricercatori, perché poi una sperimentazione sull'uomo ha dei costi altissimi, perché ci sono diversi centri coinvolti, perché ci sono delle spese altissime. La fermo, è stata molto esaustiva, dottoressa, ma era una curiosità non tanto mia, ma naturalmente no, certo, c'è una fascia di pubblico che possibilmente dice, ma come, per fare una ricerca ci vogliono tutti questi soldi, e che ne fanno questi soldi? Allora, siccome noi non siamo politici, quindi loro non dicono mai, poi si scopre col senno del poi cosa ne fanno dei soldi, e noi invece che siamo comuni mortali, ma che facciamo un lavoro benemerito, che fate un lavoro benemerito, soprattutto i ricercatori, senza i quali non ci sarebbero state scoperte eclatanti nel campo della ricerca scientifica e poi quindi di quella farmacologica e debellamento di molte come la poliomielite, di molte patologie, e ecco i soldi, ecco ho voluto spiegare a cosa servono i soldi e come vengono impiegati, quindi grazie dottoressa di questo aspetto economico sulla ricerca. Prospettive per il futuro nell'immediato, cosa possiamo dire come esito positivo? C'è qualche speranza, qualche barlume di luce in questo tunnel, dottoressa? Beh, come le dicevo prima, insomma, la ricerca, si stanno facendo degli ottimi progressi e negli ultimi 5 anni si è visto, perché diciamo che 5-6 anni fa c'era solo una sperimentazione clinica, diciamo che dalla ricerca del vaso era arrivata solo ad una sperimentazione clinica sì. sull'uomo, e oggi abbiamo un'ottantina di sperimentazioni cliniche nel mondo sulla Duchenne e Becker, quindi insomma la differenza si vede, ovviamente ci vuole ancora tempo, non abbiamo ancora la soluzione, però diciamo che i ricercatori stanno lavorando molto, noi lavoriamo per cercare di aiutare i ricercatori e così si va avanti. E noi sappiamo che in Italia abbiamo grandi ricercatori, grandi scienziati da questo punto di vista. Dottoressa, io a nome di tutta la nostra collettività siciliana, ma non solo, la ringraziamo, ringraziamo tutti i biologi, tutti gli scienziati che si applicano nell'arco del tempo, anche a costo di umani sacrifici, di tempo, voglio dire, state lì ore, pur di riuscire a dare una soluzione alle patologie che si presentano soprattutto nelle malattie rare, quindi di questo vi ringraziamo, le auguro un buon lavoro, sperando che magari il prossimo anno, risentendoci per l'appuntamento annuale con l'associazione, lei ci possa, regalarci un sorriso in più rispetto a quello che oggi ridiamo magari a due denti, a mezza bocca. Speriamo che domani possiamo invece sorridere, ma non per noi, ma per i bambini che hanno questo tipo di patologia a 360 gradi. Grazie dottoressa per essere state con noi. Grazie a lei. Le auguro buon lavoro, a risentirla. Grazie. Allora, prima di dare linea alla regia, c'è consigli per gli acquisti? Abbiamo i consigli per gli acquisti? Sì, Santi mi dice sì, vai con i consigli per gli acquisti. Of sin. allora 12:43:28, stiamo avvicinandoci alla conclusione di questa ennesima puntata, ma è abbastanza interessante. Parliamo di una patologia, capisco che molti si possono annoiare, però bisogna dare spazio e voce a queste persone, perché comunque questa malattia può colpire a chiunque e in qualsiasi momento. Parliamo un attimo di sponsorizzazione, quindi di Perito Ittica, il meglio del mare. Perché ve lo dico? Perché non soltanto i pesci che Perito Ittica, il meglio del mare, vi può offrire nell'arco del giorno, ma per esempio il venerdì mattina, se andate a Castelbuono in via Vittorio Emanuele al numero 40, trovate dei sughetti fatti con pezzi di pesce spada, col finocchietto oppure le sarde, per fare una pasta meravigliosa. Ma poi le spigole, le orate, i calamari, oppure gli spiedini, gli involtini di pesce spada, la spatola, insomma panate, qualcosa di particolare, ragazzi. Dunque bisogna andare a Cefalù in piazza Cristoforo Colombo 8, oppure in via Bazzana numero 7, perché c'è la rivendita di Perito Ittica, il meglio del mare, mobile. E poi invece a Castelbuono fisso, come anche in piazza Cristoforo Colombo 8 a Cefalù, sono due postazioni fisse, due negozi, lo trovate anche lì. Mi raccomando, cercate di comprare il meglio che c'è sul mercato. Per questo bisogna andare da Perito Ittica, il meglio del mare, perché trovate pesce fresco tutte le mattine, pesce che vi arriva dai nostri mari prospicienti, le nostre coste, quindi non c'è alcuna possibilità che sia un pesce manomesso, pesce freschissimo da portare alle vostre tavole. I preparati che questa azienda vi fa, ve lo ripeto, e soprattutto gli involtini di pesce spada, gli involtini di spatola, gli spiedini di pesce spada con gamberi e calamari, insomma ce n'è per tutti i gusti. Per cui dovete andare a Cefalù in piazza Cristoforo Colombo 8 a Castelbuono in via Vittorio Emanuele 40, e lì troverete tutto quello che vi necessita per la vostra cucina, ma soprattutto per il vostro pranzo o cena. Perito Ittica, il meglio del mare, è a Cefalù e anche a Castelbuono. Un altro ringraziamento particolare va alla dottoressa Domizia Di Fazio, perché è una specialista, specializzata in ortodonzia, ma c'è anche lo studio di odontoiatria già attivo a Castelbuono, a due passi dal castello. Quindi andateci, perché i denti sono importanti soprattutto per la masticazione, per la digestione, ma anche per un sano sorriso. Dottoressa Domizia Di Fazio vi aspetta, perché la specialista è lei in ortodonzia, ma anche nello stesso studio c'è anche l'odontoiatra e quindi il famoso dentista, chiamiamolo così, d'accordo? Mi raccomando, andateci e fatevi belli per i vostri denti. Ancora la parafarmacia della dottoressa Guardi a Castelbuono in via Dante Alighieri, vi do il numero 0921 67 22 54. Abbiamo l'Aveno, prodotti per il corpo, pelli sensibili, oppure integratori vitamina Mix Junior e Pappareali, esclusivista Roche di cosmesi viso corpo, antirughe, antietà viso donna, ma anche uomo, perché vedi Santino per esempio stamattina si è preso la Roche, se l'è messa in testa, ecco, nei capelli che non ci sono più, anche i miei dietro la Luca, insomma un casino. Prodotti per l'infanzia e i presidi sanitari che sono importanti, anche a noleggio se volete, come le sedie a rotelle, le stampelle e i girelli. Vi ricordo quindi parafarmacia dottoressa Guardi, via Dante Alighieri 116 a Castelbuono. Detto questo, dovremmo avere al telefono adesso altri due ospiti per concludere questa puntata interessantissima sul distrofia muscolare di Deschamps con variante Becker. Dovremmo avere quindi in onda da Messina, addirittura dal Policlinico di Messina, la dottoressa, vediamo se riesco a rintracciare qui il foglio, vediamo un attimo, scusate un secondo, dovrebbe, sì, se mi fai la cortesia alla regia, perché l'hanno portato via in regia, se mi porti il foglio, grazie. La dottoressa Sonia Messina, che dovrebbe essere già in diretta. Dottoressa Messina, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Scusi, ma oggi è un momento di pathos generale. Insomma, cominciamo a dire grazie per aver accettato l'invito. Intanto, lei opera nel Policlinico di Messina, dico bene? Sì, io opero presso l'UOC di malattie neuromuscolari al Policlinico di Messina. Ecco, dottoressa, il primo impatto che si ha con questi bambini, quali sono, qual è la parte più inficiante, più difficile da affrontare con questi bambini sotto il profilo medico? Ma distinguerei, diciamo, una parte prettamente medica da una parte emotiva. Sicuramente dal punto di vista medico questi bambini fino all'età di circa 6 anni, 5-6 anni, manifestano molto poco dal punto di vista della sintomatologia, e quindi è forse questa, verso i 6-7 anni, età un po' più critica sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista appunto emotivo, perché il bambino stesso inizia avere esperienza delle prime difficoltà anche nel confronto con i coetanei e conseguentemente la famiglia ovviamente ha la gestione diciamo emotiva di questo momento. Direi che il punto emotivamente più toccante è proprio questo, cioè il momento in cui aumentano le difficoltà motorie, e poi dal punto di vista medico un altro punto delicato è quello dopo la perdita di ambulazione, quindi intorno ai 12-13 anni, perché solitamente è il periodo in cui possono esserci complicanze di altri organi quali il cuore e l'apparato respiratorio in primis. Cominciamo a parlare già di cose molto molto invalidanti. Lei tra l'altro è la vice direttrice, se non sbaglio, del centro clinico NEMO, sì. Dico bene? Quindi sì. Lei è una neurologa. Sì. Senta, dal punto di vista neurologico, ecco, nella fase che il bambino comincia a percepire, man mano che cresce, quali sono le difficoltà a cui deve fare riscontro, dal punto di vista neurologico invece com'è la situazione di questi bambini? Ma diciamo neurologico dal punto di vista muscolare, dicevo, le difficoltà sono solitamente con delle cadute un po' più frequenti, con difficoltà nel salire le scale, generalmente diciamo entro i 6 anni si iniziano a manifestare questi problemi che purtroppo vanno via via peggiorando e solitamente l'ambulazione vede persa intorno ai, diciamo, entro i 13 anni da definizione. Ci può essere anche un coinvolgimento cognitivo, quindi un coinvolgimento del linguaggio, dell'apprendimento, sì, ecco. Quindi direi che è tutto il sistema nervoso essere coinvolto, sia l'aspetto periferico, quindi il muscolo, ma anche il cervello, perché la distrofina è espressa anche appunto a questo livello. Dicevamo prima con una sua collega che è una biologa di Roma che la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante nonostante sia neofita come patologia, però anche dal punto di vista farmacologico, a parte voglio dire i cortisoni, non c'è altro che si possa fare per questi ragazzi, se non erro. Sì, in questo momento dovrei distinguere fra terapie ormai ufficiali e ritenute efficaci, che appunto sono il cortisone, da altre terapie anche farmacologiche in corso di sperimentazione. Per esempio qui a Messina abbiamo recentemente concluso uno studio finanziato proprio da Parent Project con un altro farmaco che si chiama Flavocoxid, è sempre un antinfiammatorio, sì. E con dei risultati abbastanza promettenti, e come questo altri filoni di ricerca hanno dato risultati promettenti con altre sostanze. Quindi quando si dice che il cortisone è l'unica terapia, si intende dire l'unica terapia certamente validata a livello scientifico, però darei un messaggio di incoraggiamento e di speranza, perché in realtà ci sono varie altre molecole che stanno dando risultati promettenti, anche se sono ancora in fase un pochino più di sperimentazione, diciamo. Mi perdoni l'ignoranza, dottoressa, io non sono neurologo. Io so che il cervello è la parte fondamentale, da dove parte tutto, cioè gli ordini, muovere le gambe, le braccia, eccetera. Ma i danni che subisce un cervello in un bambino che ha la distrofia muscolare sono danni, voglio dire, immediati, sono danni nel tempo, o il cervello resta comunque lucido, per usare un termine accessibile, ecco. No, il cervello rimane assolutamente lucido, non c'è un quadro di alterazioni progressive del cervello e del nervo centrale, a differenza di altre malattie. Quello che può esserci, e lo accennavo prima, è qualche disturbo lieve dell'apprendimento del linguaggio, che è proprio legato al fatto che la proteina che manca a livello, sì, del muscolo in realtà manca, perché è espressa anche a livello del cervello. Però colpisce diciamo le capacità di comprensione, quindi per questi capire, ragazzi sono assolutamente lucidi per tutta la loro vita. Vediamo se ho capito bene, il problema consiste nella parte del parlare con le persone, la difficoltà nell'esprimersi. Può riguardare l'acquisizione del linguaggio, quindi quando i bambini verso i 3-4 anni acquisiscono solitamente un linguaggio completo, in questi casi può esserci un pochino di ritardo in queste acquisizioni, ma non coinvolge o rarissimamente coinvolge la comprensione, che quindi è mantenuta. Dottoressa, vicino a lei dovrebbe esserci anche il dottor Filippo Cavallaro, sì, che è fisioterapista, se non erro. Sì, un attimo, saluto tutti e grazie, vi ringrazio grazie a lei dottoressa, buon lavoro. Arrivederci. Naturalmente buon lavoro. Allora, il dottor Filippo Cavallaro è un fisioterapista. Pronto? Buongiorno a tutti. Dottor Cavallaro, ben ritrovato anche lei. Io con i fisioterapisti ho un rapporto straordinario. Bene. Avendo fatto molta palestra, lei capisce che qualche rottura di scatole c'è stata. Sono dovuto andare a rompere le scatole a qualche amico che fa fisioterapia, come lei è in atto in questo momento. Senta, dottor Cavallaro, cosa può fare la fisioterapia per alleviare questa patologia? Ma il lavoro fondamentale è quello di cercare di combattere quelle che potrebbero essere le evoluzioni dalla mancanza di forza, e quindi purtroppo questi ragazzini avranno debolezza e si corre il rischio che a causa della debolezza non facciano alcune cose. Esercizi fisici. E invece la loro vita deve essere comunque arricchita di attività. E quindi uno dei compiti che dovrebbe avere il fisioterapista e tutti quelli che ci stanno attorno al ragazzino è di dargli delle attività e fare in modo che il ragazzino impari delle strategie dove, per quanto abbia difficoltà di movimento, quello che mi sorprende di questi ragazzini è la brillantezza di come trovano soluzioni utilizzando leve vantaggiose. Quindi partecipano attivamente, voglio dire, nella fase fisioterapica. A volte veramente fanno cose sorprendenti. Ultimamente abbiamo cercato di mettere a punto una prova di impilare i barattoli uno sull'altro e anche quelli che non hanno abilità di movimento, poi utilizzando leve arrivano ad una distanza, e uno dice: ma come si fa ad alzare così il braccio? Eppure ci sorprende. La forza, cioè, di volontà. A volte il nostro corpo ha delle leve che, usate in maniera vantaggiosa, ci permettono di fare cose che solo con la forza. Ecco, dottor Cavallaro, per capire, noi non abbiamo la televisione qui, quindi non possiamo vedere effettivamente, anche se c'è, voglio dire, siamo su internet, però è diverso, non abbiamo telecamere che possono registrare quello che succede in uno studio televisivo. La domanda che le pongo è questa: quali sono gli esercizi maggiori che lei pone in essere affinché non si atrofizzano? Io parlo un po' un linguaggio non proprio appropriato, devo dire, perché non sono addetto ai lavori, ma per capire, se un ragazzino ha difficoltà a camminare, se ha difficoltà a muovere le braccia e le gambe, ci sono degli esercizi, io li ho visti fare, ci sono gli esercizi nello specifico che lei pone in essere? Sì. Intanto di mantenere sempre in ordine le articolazioni, quindi... Cosa intendiamo, attenzione, per mettere in ordine? Per mettere in ordine. se è vero che il nostro ginocchio, per dire l'esempio del ginocchio, deve essere capace di essere sempre libero ad allungarsi fino a 180 gradi e a piegarsi fino a, diciamo, 45, giusto? Quindi tutta questa grande movimento... Ecco, io devo fare in modo che questa grande libertà di movimento, anche se non c'è la forza, o passivamente o con una strategia che può essere, non riesco a farlo da in piedi, ma lo faccio da sdraiato sul fianco. Però bisogna farlo. Quindi il discorso è vero, ho difficoltà a farlo in piedi, ho difficoltà a farlo per camminare, ho difficoltà a farlo per salire le scale, ma se mi metto sul fianco non c'ho il peso della gamba, ma solo lo scivolamento, eppure su questo attrito, relativamente all'attrito sul piano del letto, posso pure mettere una cosa che mi rende tutto più scivoloso, e quindi, però il movimento lo faccio. O al limite lo faccio fare ad un altro che mi aiuta, e sarà magari il fisioterapista, che continua, anche in mancanza della forza del ragazzino, a fargli fare sempre tutto in movimento. Abbiamo 3 minuti, dottor Filippo, peraltro lei porta il mio stesso nome, di origine greca, quindi voglio dire, questo mi conforta molto. Allora, per spiegare meglio, per vedere se io ho capito e trasmetto ai nostri radioascoltatori, è importante che i bambini che già hanno delle gravissime difficoltà motorie, diciamo così, che non stiano fermi, cioè il fisioterapista, il compito qual è? Quello che nonostante tutto faccia muovere gli arti di modo tale che non si atrofizzino. Esatto. E questo tutto sommato, no? E che non si acquisiscano le retrazioni, che è il grande dilemma. No, spieghiamo questa parola, perché se parliamo in termini... Le retrazioni vuol dire che per fare tutto questo movimento del ginocchio, come dicevo prima, c'è bisogno che il muscolo sia capace di allungarsi tutto e di accorciarsi tutto. Se io lo tengo fermo, il muscolo perde questa elasticità e si retrae. E a quel punto là non diventa più una cosa elastica, ma diventa... una struttura rigida. Dottor Cavallaro, lei ha un compito molto molto delicato, ma lo avete tutti in questa associazione, l'avete tutti come specialisti, ognuno nel proprio campo. Ce l'ha la ricerca scientifica con i biologi, ce l'ha la dottoressa Messina, perché comunque essendo una neurologa deve interagire con i ragazzi, capire un po' come funziona in quel momento il cervello e quindi fa le sue, ma soprattutto anche il dottor Cavallaro ha il suo buon da fare, voglio dire, nel senso di tenere attivi questi ragazzi che diversamente diventerebbero una massa senza possibilità più di movimento alcuno, perché il muscolo, se non viene esercitato, è chiaro che si atrofizza. Purtroppo. E dunque ecco, quello è. Dottor Cavallaro, io mi devo fermare. Big Ben, diceva un famoso conduttore televisivo, vi ha detto stop, parlerei con voi per ore ed ore, perché parliamo di bambini, per cui immagini, soprattutto per chi è genitore, quale contraccolpo emotivo arriva nei nostri cuori. Sicuramente ci auguriamo, lo dico adesso, resti ancora in linea, la prego, mettere mani al portafoglio, fate l'MSS e l'SMS mandando 2 euro con l'SMS, funziona così, al 45503, non dimenticatelo, oppure chiamate il numero verde 800 943 333 per avere informazioni, ma anche per capire dal numero fisso come poter fare ad inviare le 5 euro, perché dall'SMS sono 2 euro, dal numero fisso invece 5 euro. Se potete anche personalmente mettervi a disposizione di questa Onlus, che è fatta esclusivamente da genitori, dove molta gente lavora, e lo state sentendo da chi è intervenuto in questa trasmissione, vi ricordo che si chiama Parent Project Onlus ed è una associazione fatta esclusivamente da genitori che hanno bambini con questo tipo di patologia. Dottor Cavallaro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, sosteniamo sempre queste ricerche. Ma ci mancherebbe altro, le siamo vicini con il cuore evidentemente, sperando che la ricerca scientifica da un lato, i neurologi dall'altra e anche i fisioterapisti, che sono il cardine di tutto quanto, almeno in questo caso, di essere nel futuro, di avere maggiori possibilità di soddisfazioni anche lavorative, nel senso che vedere i bambini che possono muoversi ancora più liberamente rispetto a quando non lo facciano oggi, dottor Cavallaro. Ci tentiamo. Combattiamo. Buon lavoro, dottor Cavallaro. Grazie. Buon lavoro a lei. Grazie ancora. Allora, noi ci fermiamo qui. Il tempo, diceva un grande presentatore, un certo Enzo Tortora, che ha dato, come dire, ha dato un'innovazione ai programmi e ai palinsesti radiotelevisivi. E diceva Big Ben ha detto stop e noi ci dobbiamo fermare, perché alle 13 in punto, sono 50 secondi oltre, 51 in questo momento, io devo ringraziare di vero cuore il dottor Luca Genovese per il suo intervento, dire vicepresidente della Parent Project Onlus. Devo ringraziare il dottor Filippo Cavallaro del Policlinico di Messina, fisioterapista, e ci ha spiegato cosa fa per alleviare come dire, le sofferenze di questi bambini. Ringrazio di cuore veramente la dottoressa Francesca Ceradini, ricercatrice scientifica, direttore scientifico della Parent Project, ma oltretutto è biologa e quindi ci ha ragguagliato su quelle che sono fino ad oggi la ricerca e come sta andando avanti. E poi naturalmente bisogna ringraziare la dottoressa Messina, che è neurologa e quindi anche lei ha detto la sua su questo tipo di patologia e quali sono gli aspetti come dire, deleteri di questi bambini, che fortunatamente non gli colpisce il cervello, però la parte neurologica è importante e fondamentale per una sana crescita. Io ringrazio anche Santi Genovese, perché oggi mi ha fatto la regia, ti è stato molto caro, grazie anche a te, grazie a tutti gli amici radioascoltatori, mi scuso con qualche sponsor, ma il tempo purtroppo è tiranno e la trasmissione lo meritava tutta, perché abbiamo parlato di una cosa veramente interessante. Vi ricordo il numero, gli SMS, fateli 45503, donate 2 euro, servono per la ricerca scientifica, oppure telefonando al numero verde 800 943 333, insomma chiederete tutte le informazioni del caso. Se volete anche imparentarmi, nel senso di fare voi senza possibilità di mettere soldi, ma mettere la vostra persona a disposizione dell'associazione, chiamate questo numero verde e ci sarà qualcuno che vi dirà come muoversi. Da parte mia un grazie di vero cuore per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti, grazie agli sponsor, grazie ancora a Santino, l'ho detto prima, per la parte tecnica. L'appuntamento è per domenica alle 8.30 per la differita e poi naturalmente giovedì prossimo per un altro appuntamento con carta e penna, e chissà che non possiamo parlare di cose più allegre rispetto a quelle di cui ma erano importantissimi e quindi abbiamo dato ampio spazio. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Gl-